Abbiamo studiato, stiamo approfondendo il concetto delle prove, del Nisayon, della prova alla quale, davanti alla quale veniamo messi davanti. Qui il Rebbe Yosef Yitzchak approfondisce il discorso delle prove, in particolare legato agli ultimi momenti dell'esilio, del Galut, quello che si chiama nelle nostre fonti Ikve Meshicha, gli talloni del Mashiach, cioè si vedono già arrivare i talloni del Mashiach, gli ultimi momenti del Galut. Questi sono i momenti in cui le prove possono essere più forti, ma al tempo stesso, come vedremo, abbiamo ancora una energia e una forza più forte per superare queste prove molto difficili. Vediamo un po' il testo cosa dice. והנה זאת היא עבודת כל ישראל בגלות האחרון בעקבות משיחה. Questo è il operato e il servizio che devono svolgere nella loro avodà, nel loro servizio di Hashem, tutta Israele, nell'ultimo esilio, negli ultimi momenti dell'esilio. Le orer, di cercare di risvegliare, et nekudat hayahadut, quella famosa quel famoso puntino, nekudà, scintilla di ebraismo, Yahadut, cioè della Neshama, Asher Nimza, che si trova, Amok, Amok, molto profondamente all'interno, Belev Kol Ish Israel, nel cuore di ogni membro di Am Israel. Ubekoach Izuz Gvurat Nekudat Levavozzo, e con la forza tratta dal rendere forte e tirare fuori la forza di questa scintilla del cuore, questo punto essenziale del cuore, con quella forza Yachol Hu, la persona può, la Amod Chazak, rimanere fermo e forte, Bechol Tokef Oz, con la massima fermezza e forza, Veneged Kol Monea Umeakev, dinanzi a qualsiasi ostacolo o qualsiasi cosa che fa cercare di fermare milil modeta Torah dallo studiare la Torah ule kayem et mitzvot e dal mettere in atto le mitzvot, che questa è la prova, questa è la prova, il poter fare le mitzvot e studiare la Torah anche quando è difficile ule itgaber ala nisayon, e rafforzarsi, superare la prova. E quindi vi il motorà e studierà la Torah, vi kayemet a mitzvot e metterà in atto le mitzvot, mi belila sum lev, senza dare caso, senza fare caso, senza dare attenzione, senza dare importanza, klal, per nulla, El hamon im ve hameakvim, a coloro che invece si pongono contro e si mettono contro. E questo è molto importante, come approfondiremo, questo punto qui. Velo li hitchashev imahem klal uklal. Non considerare, dare importanza a che siano gli elementi o le persone che siano che cercano di farci evitare questa cosa. Non iniziare a creare dibattiti avanti e indietro, come tra un po' approfondiremo, perché questo stesso fa parte del Nisayon, questo stesso fa parte della prova. Il non considerare è il modo di superare il più possibile. Sheharei, poiché, Eino dome la nitzot shebadavar hagashmi shetzrichim levarero al yedei avodah. Noi abbiamo parlato nei scorsi capitoli precedenti che il nostro compito su questa terra, in certa maniera, è di lottare con il male o di raffinare ciò che è un miscuglio tra bene e male e riportare il bene verso la sua fonte. Come per esempio abbiamo detto che in ogni cosa che ci viene incontro c'è una scintilla del divino, che nel momento in cui noi usiamo quella cosa nella maniera corretta per la Torah, allora quella scintilla, la scintilla si ricongiunge alla propria fonte. Come se io dicessi, questa mela, questo caffè che io bevo è neutro e dentro questo caffè c'è una scintilla di Kedushah, però ora non sta in mano alla Kedushah questo caffè, tra virgolette. sta in mano alla Klipat Noga, a qualcosa di impuro, ma non totalmente impuro, cioè ancora è possibile purificarlo, raffinarlo. Nel momento in cui io bevo questo caffè prima dicendo una berakha, e poi con l'energia tratta dal bere questo caffè mi metto a studiare Torah, significa lo indirizzo e lo faccio incanalizzare nella maniera corretta, coerente con la volontà di HaKadosh Baruch Hu, allora cosa faccio? Faccio sì che quella scintilla del divino che lì è nascosta e persa, tra virgolette, si ricongiunge nella Kedushah. In quel caso non devo evitare il caffè, no, devo affrontarlo, devo lottare con la materia, ma nella maniera giusta, e qui in questa maniera riporto alla Kedushah ciò che, tra virgolette, era stato perso. Qui stiamo dicendo nella prova, nel Nisayon è diverso. Non devo necessariamente andare ad affrontare la cosa in maniera diretta, ma devo cercare di aggirarla o di evitare, in qualche maniera di superare. Cioè ci sono due maniere di lottare con ciò che ci viene incontro. La maniera convenzionale, come nell'esempio del caffè e tutte le altre cose materiali del mondo, è una maniera diretta. Non scappare via, affrontare nella maniera corretta e in questa maniera rendere kadosh la materia. E questo è in generale nell'ebraismo, è così. Il principio delle mitzvot positive e negative. Esattamente, il principio delle mitzvot. Come fai a non contrapporti, che ne so, una persona che ti impedisce? Ok, aspetta. Prima abbiamo la maniera convenzionale, che per tutte le cose materiali funziona nella maniera convenzionale, come per esempio le mitzvot positive. Non scappi dalla materia, bensì usufruisci della materia nella maniera voluta dalla Torah. Qui stiamo contrapponendo a questo l'idea della Nisayon. Cioè la Nisayon, il momento della prova, non è una cosa convenzionale. È una cosa che ti tira fuori dai parametri normali, e anche il modo di affrontarlo non è secondo i parametri normali che abbiamo appena detto, bensì, come diciamo qui, è non, come qui usa il termine bederech milchama, non come una guerra, una lotta diretta, bensì cercando di rimanere fermi e forti nella propria posizione senza essere affetti da quello che succede esternamente. Non stiamo parlando di una persona, di un problema interpersonale tra persone, quello è un altro discorso. Stiamo parlando di momenti, e come ho detto anche la scorsa volta, il contesto storico di cui è stato pronunciato questo discorso qua, che era il contesto storico del comunismo, che si contrapponeva alla religione, al mettere in atto, per quello che ci riguarda, la Torah e le mitzvot. Allora lui sta dicendo: non andare a combattere, rimani fermo nella tua posizione. Questo diventa il combattimento, cioè non un combattimento diretto, ma un combattimento indiretto, come una barriera, una non reazione, che è una forma di combattimento. Sì, però questo non è limitato a quel contesto storico là. Ovviamente si applica in qualsiasi contesto storico, incluso il nostro, perché anche noi abbiamo delle prove, come vedremo, che sono nello schema delle prove degli ultimi momenti prima della venuta del Mashiach, e a volte anche noi ci dobbiamo dire, dobbiamo tirare fuori, risvegliare, come abbiamo detto prima, la nekudata yadut, cioè quel puntino di essenza di Neshama che c'è dentro ogni ebreo, che dal quale si può trarre molta forza, senza andare a combattere con ogni singolo problema che ci viene incontro, ma trovando dentro di noi la forza per rimanere fermi e forti, nonostante molti venti e tempeste che possono esserci intorno a noi, con la nekudata yadut, tirando fuori questa essenza della Neshama, possiamo rimanere forti e superare queste tempeste. לא, זה הרבי רייץ, רבי יוסף יצחק, זה בשנת 27, כשהיה בעיות עם הקומוניסטים. אה, כן, על הדרך הזה של דרך אהבה וקירוב ללמוד תורה. כן, אבל פה הוא מדבר על qui stiamo parlando di ניסיונות, delle prove. Lo marshim lekayem biglan. Quando è difficile per le condizioni esterne mettere in atto la Torah e le mitzvot, Allora devi trovare dentro di te la forza di superare la prova. Un esempio per dire se ho capito praticamente. Sì. Se a me è capitato di andare a un posto dove non c'è carne kasher, sì, praticamente io resisto e non mangio comunque carne perché non è kasher, quella può essere considerata una prova. Allora, una prova, questa può essere considerata una prova. Una prova è soggettiva anche alla persona che è messa sotto la prova. Giustamente, tu fai l'esempio, se io mi trovo in un luogo in cui non c'è la carne kasher e supero la prova nel senso che non vado a mangiare la carne che non è kasher, come puoi superare questa prova? Non andando a lottare con la carne taref, ma evitandola, quindi trovando dentro di te la forza di superare questo problema. Assolutamente sì, questo è un esempio di una prova, e ci possono essere anche molti altri esempi di prove, forse ancora più difficili, ok? Perché uno dice, ok, non mangi la carne. Può essere una prova nel momento che magari vai in Argentina e tutti vanno a mangiare le buone bistecche e tu ti astieni, va bene. Però la Shoah stessa, sì, però anachnu rotzim dugma shel hayom. Cosa è una prova oggi? Ma qual è la prova alla quale siamo posti davanti oggi? Ok? Ognuno sa quali sono le prove, perché? Perché le cose più difficili che uno deve fare nella vita, quelle sono le prove. Non è che uno deve andare a cercare le prove. Tra l'altro, noi nella tefilà, la mattina, cosa diciamo? Grazie. Nelle Birkot HaShachar, noi diciamo, chiediamo a Kadosh Baruch Hu di non metterci davanti ad una prova. Velo lidei nisayon. Ve alti vieni lidechet. Non portarmi al peccato. Velo lidei nisayon. E non mettermi davanti ad una prova. Cioè, noi preghiamo a Kadosh Baruch Hu, per favore, non porci in questa condizione. Le prove sue dirette sono ben altro che quello che... Tutte le prove sono sue dirette. No, perché voglio dire, è più pesante. Lo so, però, noi, in altre parole, cosa ci insegna questo? A Kadosh Baruch Hu a volte ci mette alla prova. La nostra richiesta è, per favore, non metterci alla prova. Significa, questo ci insegna un principio. Il principio che questo ci insegna è... che non bisogna andare a cercare una prova. Una persona non deve andare a mettersi appositamente, volutamente, in una situazione di difficoltà dove sarà provato, sarà messo alla prova, dove sarà messo alla prova per fare la Torah e le mitzvot. Se tu dici, io vado apposta dove è difficile comportarsi da ebreo, perché? Perché ho la forza dentro di me di superare la prova. No, non è così che si fa. Una persona non deve andare a cercare una prova. È a Kadosh Baruch Hu che ti mette alla prova. Però la stessa sheikhut vostra. Infatti, sto pensando la stessa cosa io. Questa... e anch'io l'avevo pensato. Cosa significa il concetto della shelichut? Comunque verso un nulla per riportare qualcosa. Esattamente. Allora, sulla... tutto sempre. È vero che è sempre così, però qui è più evidente nel concetto della shelichut, no? Che uno va in un luogo dove è difficile fare mitzvot e studiare la Torah. Allora la domanda è: perché uno va? I Gabbad perché vanno? Questo sta dicendo Andrea. Sì. Credi sempre in Hashem che ti manda quello che ti deve mandare. Ok, allora la differenza è questa. Se tu vai per tuoi motivi personali, dici, io per me, io abito a Roma, c'è carne kasher, ci sono lezioni di Torah, si può pregare con Minyan... Adesso decido di andare a vivere a Caserta. A Caserta non c'è carne kasher, non c'è lezioni di Torah, non si può pregare col minyan, non c'è il mikve. Come faccio? Vabbè, c'ho l'essenza dell'ebraismo. Vabbè, con te, tranquillo, ci organizziamo un pulito. C'ho l'essenza dell'ebraismo dentro di me e riuscirò a superare la prova. No, questa è una situazione che tu ti sei messo, nessuno ti ha chiesto di farlo. Adesso dici, per me il lavoro è meglio lì, ok? Forse la prova è opposta. Il lavoro è meglio lì, però l'ebraismo è meglio qui. Allora vediamo se riesce a superare la prova e rimanere qui. Questo se era portato in questo senso. Se tu dici però lì a Caserta ci sono 10 ebrei, ma non c'è una Beta Knesset, non c'è un mikve. Io voglio andare in Israele, problema. Sì, sì. Io voglio andare lì. Voglio andare lì a creare un mikve, un Beta Knesset, lezioni di Torah ogni giorno, eccetera. Allora in quel caso cosa succede? Tu sei lì non per prendere da quel posto, ma per dare a quel posto. È una missione, certo. Allora nella Kashrut c'è una regola. La regola della Kashrut è quando uno è un elemento di cibo, per esempio, e sta espellendo, se vogliamo, sta dando di sé, allora nello stesso momento non assorbe. La regola è, per esempio, sì, nella Melichah, quando si fa la salatura della carne per tirar fuori il sangue. Allora, quando sta con il sale, sta tirando fuori il sangue, e nello stesso momento si può essere un elemento non kasher vicino, allora in alcuni casi noi diciamo che van de tarid le miflat, visto che sta tirando fuori di sé, allora lo balà, non assorbe. Anche lo studio era così. Anche nello studio, quando tu dai, allora non prendi. Quando tu, c'è scritto, non puoi essere amico di un malvagio. Non è bene stare vicino ai Reshaim. Allora, sì, però dipende. Se tu stai vicino perché prendi da loro, allora devi stare lontano. Però se tu insegni a loro e li aiuti a non più essere Reshaim, allora è il contrario, devi stare vicino a loro. Allora dipende la direzione, però questa è una parentesi. Noi parliamo in generale di tutte le prove che possono venirci incontro. Come ho detto prima, qual è la prova? La prova è la cosa che ti è difficile in quel momento. Eh? Che cosa? Un passaggio. Sì. Tu hai detto la tefilà. Stavamo in realtà in mezzo, sì. Che c'è scritto di non metterci... Ah, scusa. No, ti sento. Che non c'è detto di non chiediamo di non metterci davanti alle prove, no? Sì. Però in realtà, come diceva qua prima, e noi le scintille di Kedusha le tiriamo fuori attraverso le prove. Attraverso la prova che affrontiamo, se facciamo l'esempio del caffè, io sto facendo la prova, sto facendo la mitzvah. No, questa non è una prova. Qui abbiamo fatto la distinzione tra quello che noi chiamiamo cabalisticamente avodata birurim, cioè il raffinamento della materia attraverso la normale attività di Torah e mitzvot. Questo non rientra nel concetto della prova. E lì si affronta di maniera diretta, come hai detto tu, come le mitzvot positive. Quindi questa è la distinzione tra la normale, l'approccio convenzionale, che è il raffinamento della materia e il rapportare la scintilla nella Kedushah quando fatto in maniera coerente per la Torah, e d'altro canto il discorso del Nisayon, della prova. Che lì invece il confronto non deve essere diretto, come in realtà ancora dobbiamo vedere nel testo. Sì, però anche attraverso il confronto noi facciamo... Questa è avodata birurin, tiriamo fuori le scintille. Allora, perché noi, è in contrapposizione a quello che noi chiediamo di non farci fare allora. Perché non è in contrapposizione. Non mi mette davanti a una prova, vuol dire che mi stai dicendo, che sto chiedendo di non farmi tirare su il mio lavoro. Di nuovo, tirare su si fa anche attraverso la normale convenzionale cosa, non solo attraverso le prove. Però ci sono cose che si possono fare solo attraverso il secondo allora modo. Allora noi stiamo chiedendo nella tefilà... A Kadosh Baruch Hu, per favore aiutici a farlo nella maniera facile. Non nella maniera difficile. Ma questo non significa... Questo significa due cose. Prima cosa, può darsi che lui ti mette alla prova e lì non puoi scappare. Significa che, come vedremo ancora nel testo, abbiamo la forza di superarlo. E seconda cosa significa, come ho detto prima, non andare a cercare la prova. È lui che ti mette alla prova. Io faccio il carabiniere, praticamente devo sventare una rapina, ma se spara che un giugno mi metto qua davanti nella rapina. Sì, ha ragione. Cioè, non so se le sento queste cazzate. Stanno a comando. Lascia per fare una cosa che piace. Guardiamo di nuovo il testo. Guardiamo il testo. Velazot. Ok. Sì, Avalkan Haberur Hu Aliedei Dechia Davka. Qui, cioè nelle nisyonot, nelle prove, il modo di raffinare Berur è attraverso il respingimento, cioè non il confronto diretto. Vehainu, e cioè, dehait gabrut b'inyana nisyonot, come ci si rafforza per superare la, il nisayon, la prova, le nazeachotam, per appunto superarle, harei enze aliede avodat de moach velev betorat fila bilvad. Non è attraverso la convenzionale, normale servizio di Hashem, studiando la Torah e facendo la tefila. Kim bensì bekoach ha'atzmi shebanefesh, con una forza essenziale che c'è dentro l'anima, shehu inyan hitgalut etzem ha'yechida, che cabalisticamente si esprime nei termini la rivelazione della yechida, cioè yechida è il livello più elevato dell'anima, sì. C'è scritto che ci sono 5 livelli della neshama, e il livello più alto è il livello che si chiama yechida. Yechida perché? Perché unita direttamente con HaKadosh Baruch Hu, Yechidah Liachadach, come diciamo nelle Oshanot, e questa si rivela nel momento in cui una persona riesce a superare una prova, oppure rivela questo per superare la prova. Velazot, di conseguenza, Nekola Avodahu, il servizio è, servire Hashem nella prova è, la Amod Banisayon Befoal, è di rimanere fermo nella propria posizione, nonostante la prova. Per esempio, lui fa l'esempio che è storicamente la situazione che vivevano in quel momento nell'Unione Sovietica, quando c'è chi fa sì che non si possa studiare o pregare, vieta di studiare o pregare, bisogna rimanere fermi nella propria posizione, senza entrare in lotta. Non con, dibattito. Solamente studiare, ulit pallel, e pregare, ulit naeg bidarkei Torah mitzvot, e comportarsi secondo la via della Torah e mitzvot, vechol ze betokef gadol, con una grande fermezza, ubechayut pnimi, con una energia interna che deriva dal proprio interno, shehu tokef atzmi, che è una forza essenziale, blishum tanau manaklal, dove nessun dibattito può rompere quella fermezza, può rompere quella convinzione. È una convinzione, in altre parole, non logica. Non è una convinzione logica, è una convinzione che viene dall'anima. E solo con una convinzione che viene dall'anima, shebaze davka, solamente con questa convinzione e fermezza, mitgabrim ala nisyonot, si possono superare le prove. Ok? Una domanda importante, sì? Che riguarda quello che dicevamo di prima, riguardo la Shoah. Se uno considera il discorso, per esempio, della ribellione nel ghetto di Varsavia, come in realtà c'è stata anche al tempo dei Maccabim, ok? Una cosa del genere. Se la reazione che c'è stata è giusta o sbagliata, nel senso, c'è un oppressore che mi vieta di vivere, di fare qualsiasi cosa, e a un certo punto mi alzo e dico, lo combatto. Allora, in questo caso, uno potrebbe pensare che sarebbe giusto pregare e non reagire, cioè continuare comunque la propria vita. Sono due cose diverse, sono due cose assolutamente diverse. Molto diverse. Qui noi stiamo parlando di un oppressore spirituale. Ok, questo dicevo, per cui è... Nel caso di pericolo di vita materiale, l'Alaha dice tutte le mitzvot, perfetto, sono respinte per protezione della vita. Perfetto. A vocanzele per capita, yachid, e siamo dubbara alla Am Yisrael, come Maccabim, nilchamim. Allora, ani asbir od pam. Yesh distinzione, yesh chiluk, bein nisayon gashmi, chutz me'achiluk ben yachid v'rabim. Nisayon gashmi, nisayon rochani, una prova materiale, una prova spirituale. Qui stiamo parlando di prova spirituale. Okay. Lo di barnu po al yevanim. Ni omer ma context po. Okay. Quindi parliamo di qualcosa che è l'orak, è mare timu et haichal, fisit, ok? Asaya tzarich fisit lo tziotam. Quindi è importante anche in questo senso il fatto che sia, diciamo, il livello di, il fatto di quanto sia grave anche questa oppressione, questo è il discorso spirituale. Sicuramente, sicuramente. Kanon achum medabrim ruchanit. Allora, se tu devi salvare una vita... fisicamente combattere, salvare una vita, Certo, devi fare tutto quello che bisogna fare per salvare una vita. È normale. Hashkem le horgo. Habba le horgecha. Hashkem le horgo. Cosa dice la Gemara? Chi viene ad ucciderti, uccidilo prima. Hashkem le horgo. Potremmo fare gli esempi. Così dice la Gemara. Vabbè, no, il discorso è una battuta. Ma non c'entra niente Roma. Io spesso sono andato al tempio a Livorno, col fatto che frequentiamo Livorno. E lì mettevano un sassolino sulla porta, il famoso sassolino che avrebbe salvato la comunità. Cioè il tempio è stato per tanto tempo col sassolino sulla porta, capito, per non farla chiudere, che in realtà permetteva a qualsiasi persona alla fine di entrare. Oggi c'hanno uno shomer, c'hanno qualcuno, però questo sassolino avrebbe salvato tutti. E loro fanno alcune persone, loro dicono vabbè, noi abbiamo Hashem che ci protegge, no? Sì. Però è relativo, insomma, aiuta. No, non è che è relativo, è che bravo, è che tu devi fare la tua parte. Sì, ma questo è un discorso che proprio ma è... lasciano falsa assunzione, non c'entra niente. Non c'entra con il nostro contesto qui, anche se è importante fare la distinzione. E qui stiamo parlando della emunà che l'ebreo c'ha dentro. Una cosa diversa. Una cosa diversa. Di affrontare una prova più che altro personale, non esistenziale a livello materiale. Certo. Di Nekol Israel ma'aminim benei ma'aminim. Tutti gli ebrei, come dicono i nostri maestri, sono credenti, figli di credenti, be'emunà pshutà, con una semplice emunà. Semplice significa non dipende da una logica. È una emunà diretta dal cuore con HaKadosh Baruch Hu, de hu yitbarach levado hu venzulato, che c'è solo un Dio. Ve'atorah mitzvot nitzchiyim hema, e che la Torah e le mitzvot sono eterne. Questa è la forza di cui stiamo parlando, la fermezza nella emunà. Emunà Bahashem, la emunà in Dio, e la emunà e la certezza che la Torah e le mitzvot sono eterne. Non esiste che qualcuno può venire a dire ora non sono più rilevanti queste cose. Come? Qui era il contesto comunismo, ma anche oggi abbiamo certo. Idee di questo tipo. Questo i rabbini hanno detto quando non avevano i frigoriferi, e questo i rabbini hanno detto quando la Torah parlava di un'altra situazione, e oggi ci siamo emancipati. E questa è la prova esistenziale per l'anima, non per il corpo, ma per l'anima e per la continuità di Am Israel. Allora dobbiamo anche un attimo capire di contestualizzare di quali contesti che esistono anche oggi che si contrappongono alla Emunà, alla eternità della Torah e le mitzvot, così come ci sono stati trasmessi nelle generazioni. Allora la prova è betokef ze, una forza, una fermezza, yamot chazak, di rimanere fermo, le kayem mitzvot Hashem, di mettere in atto le mitzvot, bli le arera achar midot avid barach, senza entrare nel cosa ha pensato Dio qui, forse intendeva così, forse intendeva cosa. Kilama ita lefanav kazot, mi lefanav idbarach dedavka beikvot meshicha, Neshamot nemuchot yunisyot gdolot kaelu. Uno si potrebbe chiedere, se noi siamo in questi ultimi momenti del Galut, dove in realtà non ci possiamo paragonare ai nostri avi, siamo livelli spirituali molto meno importanti di quello che vediamo dei nostri chachamim e delle generazioni precedenti, e com'è che proprio a noi ci sono delle prove così forti che forse non c'erano prima? E uno facendo questi discorsi può impazzire. Allora lui dice, ecco che non devi affrontare in maniera diretta, devi rimanere fermo e basta. E avere la certezza e la emunà che HaKadosh Baruch Hu non ti mette davanti ad una prova senza darti la forza di superarla. Questo dice, Vohu el yodea barur, sapere bene e chiaro, ki bo bachar Hashem leorid nishmato bezman zeh makom zeh letovato. Se tu sei qui oggi e ora, significa che Hashem ti ha scelto che la tua Neshama sia in questo mondo, oggi, e in questo luogo, e in questo tempo, per il tuo bene, non per il tuo male. Ti ha messo qui per il tuo bene. E ti ha dato la forza, Vuit Barach Natan Bo Koach Vaoz, la Amod Banisayon, di rimanere fermo davanti alla prova. Ve Adraba, al contrario, Kocho Ito Imo Levarero Lezachecho Lo Sif Or. Non solamente superare la prova, quindi evitare il male, ma aggiungere, aumentare il bene. Uke ma'amar, come dicono i nostri chachamim, en HaKadosh Baruch Hu ba bitrunia imbruyotav. HaKadosh Baruch Hu non viene a giocare con le sue creature. significa non gli dà in mano delle cose da superare senza dare loro la forza. Ukshume vakesh, e in nome vakesh ela kefi kohan. Quando ci chiede una cosa, non ce lo chiede se non secondo le forze che abbiamo per superarla. Cosa trunia? Trunia? Zot omeret lo noten lecha mesima bli latet lecha gam et hakoach. Ah, trufa lifnei amaka. כן, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, אבל את הכוח לעמוד בזה. E quando הקדוש ברוך הוא dà, dà secondo le sue forze, non secondo le tue forze. Questa una persona deve pensare, deve cercare di intromettere dentro il proprio cuore e vivere secondo questo insegnamento ci dà la forza. Arriviamo alla riga dove è scritto Veseu Matovu Alecha Yaakov. Ecco che nella profezia di Bilam ha detto Matovu Alecha Yaakov. Quanto sono belle le tue tende, Yaakov. Abbiamo spiegato nei maestri nel Midrash Shehem quali sono queste tende. L'allusione è Batei Knesiotu Batei Midrashim, le case di studio e di tefilah. Dagli Edei Ashkida Beotiot Torah Vishurei Ereva Boker Barabim Dafka. Quando si studia la Torah in pubblico, più ancora di in privato, e Mishkanotecha Israel, e quando ripete il pasuk che dice le tue dimore Israel, che è un riferimento a Avat Reim, all'amore tra la gente, Bekinyan Hamidot Tovot, e l'acquistare buoni tratti caratteriali attraverso lo studio, in soprattutto Milimut Pnimiuta Torah, della parte anche interna della Torah, in Aliedeiseh. Tramite tutto ciò, natata lirecha neslit nosessa. Kadosh Baruch Hu, tu dai in mano al tuo popolo uno stendardo, litnoses, che si tira in alto. Che la parola nisayon e nes sono la stessa radice. Nisayon è la prova, ma è anche qualcosa che viene messo in alto. Neslit nosessa, cioè ti tira su, la amod chazak lit gaber al kol nisyonot. Rimanere fermi e forti per rafforzare, sì, anche miracolo, per rafforzare tutte, per superare tutte le prove.